Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. E ringraziamo tutti voi che siete stati così pazientemente ad ascoltarci, ringraziamo Walter che si è sempre arrabattato alla console con la maestria che lo caratterizza, e se tutto va bene ci sentiamo la settimana prossima. Buona domenica.